Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù nostro Signore e Salvatore. Questa sera vi trasmetterò un insegnamento che concerne il dopo la morte e precisamente concerne questo insegnamento sul dove va il cristiano quando muore. È bene fare una premessa innanzitutto. Noi esseri umani siamo fatti di un corpo, di un'anima e di uno spirito. Possiamo dire che l'essere umano è un essere trino. Questo è confermato dall'Apostolo Paolo ai Tessalonicesi, precisamente nella prima epistola, quando dice al capitolo 5, versetto 23, or l'Iddio della pace vi santifichi egli stesso completamente, l'intero essere vostro, lo spirito, l'anima ed il corpo sia conservato irreprensibile per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo. Quindi l'essere umano è formato da tre parti, lo spirito, l'anima e il corpo. Il corpo è fatto di polvere e alla polvere è destinato a ritornare. Che cosa disse il Dio ad Adamo dopo che Adamo peccò? Il Dio disse tra le altre cose ad Adamo: sei polvere e in polvere ritornerai. Questo è scritto al capitolo 3, versetto 19 della Genesi. Quindi il corpo, che è fatto di polvere, torna alla polvere nel momento appunto in cui l'essere umano muore. Lo spirito, che viene da Dio, ritorna a Dio che l'ha dato. Questo lo troviamo scritto, prendete appunto il libro dell'Ecclesiaste, perché troviamo scritto anche questo nella Bibbia. Libro dell'Ecclesiaste al capitolo 12, dice l'Ecclesiaste al versetto 13: ma ricordati del tuo creatore nei giorni della tua giovinezza, poi dice prima che vengano i cattivi giorni e diciamo altre cose, e poi verso la fine dice al versetto 9: prima che la polvere torni alla terra come era prima e lo spirito torni a Dio che l'ha dato. Quindi lo spirito torna a Dio. Poi c'è l'anima. L'anima continua a vivere. L'anima è immortale perché continua a vivere in maniera conscia, cioè coscientemente, nell'aldilà. E che l'anima sia una parte, una componente dell'essere umano e che sia immortale nel senso che non può essere uccisa. Noi questo intendiamo dire quando diciamo che abbiamo noi esseri umani un'anima immortale, cioè abbiamo appunto l'anima che non può essere uccisa. Che disse Gesù un giorno ai suoi discepoli? Capitolo 10 di Matteo, dice: non temete coloro che uccidono il corpo, ma non possono uccidere l'anima. Quindi non temete coloro che uccidono il corpo, ma non possono uccidere l'anima. Capitolo 10, versetto 28. Ora, è molto chiaro qui, Gesù. Il corpo può essere ucciso, cioè può essere ammazzato, ma l'anima no. Perché dice che gli uomini possono, perché qui si riferiva agli uomini naturalmente, coloro che uccidono il corpo, sono gli uomini che possono uccidere il corpo, ma non possono uccidere l'anima, quindi l'anima è immortale, non può essere uccisa da nessuno, da nessun uomo. Quindi quest'anima continua a vivere, come ho detto, nell'aldilà. E per quanto riguarda il cristiano, perché questa sera mi soffermerò sul luogo di destinazione dopo la morte del cristiano. Naturalmente il luogo dove va il cristiano dopo la morte, dove va la sua anima, è un luogo bello, uso questo termine, per naturalmente contraddistinguerlo dal luogo brutto, orribile, dove vanno le anime dei peccatori, cioè di quelli che muoiono nei loro peccati, ma ci ritornerò più approfonditamente su questo man mano che proseguirò nella mia esposizione. Quindi l'anima continua a vivere. Che il cristiano continua a vivere dopo la morte, lo ha detto chiaramente Gesù Cristo, il Signore. Gesù disse: io sono la resurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muoia, vivrà. O benché muoia, vivrà. Quindi noi siamo sicuri che come discepoli di Cristo, anche se moremo, vivremo. Ma dove vivremo? Vivremo con il Signore Gesù. E dov'è il Signore Gesù? Il Signore Gesù è in cielo, perché là è stato assunto. La Bibbia dice che Gesù fu assunto in cielo, alla destra di Dio, nei luoghi altissimi. Gesù è in cielo, fratelli e sorelle, riflettete a questo. Un giorno Gesù fu assunto in cielo. Gesù, dopo essere risuscitato, apparve ai suoi discepoli, apparve a molti credenti, e dopo 40 giorni fu assunto in cielo, e lo videro andare in cielo. E scomparve dinanzi agli occhi loro, dopo un po', perché una nuvola, accogliendolo, lo tolse dinanzi agli occhi loro. Considerate questo: Gesù fu visto andare in cielo. Quindi la scrittura dice che noi vivremo dopo la morte, con Gesù in cielo. Perché l'apostolo Paolo dice in Secondo Timoteo capitolo 2, dice al versetto 11: certa è questa parola, che se moriamo con lui anche vivremo. Quindi questa parola è certa, non c'è dubbio di nessun genere. Se moriamo col Signore, badate bene, dobbiamo morire con il Signore, non senza il Signore, perché se moriamo senza il Signore non si va a vivere con il Signore, si va in perdizione. Quindi se moriamo con lui anche vivremo. E siccome che Gesù vive in cielo, noi vivremo in cielo o andremo in cielo. Vi ricordate che cosa disse Gesù la notte in cui fu tradito? Gesù, tra le altre cose, fece al Padre questa richiesta. Ascoltate che cosa c'è scritto al capitolo 17 di Giovanni, Vangelo di Giovanni, il discepolo che Gesù amava, al versetto 24. Ascoltate attentamente. Padre, disse Gesù al Padre suo, io voglio che dove sono io siano meco, cioè con me, anche quelli che tu m'hai dati, affinché veggano la mia gloria che tu m'hai data, poiché tu m'hai amato avanti la fondazione del mondo. Quindi ha fatto questa richiesta Gesù al Padre. Cioè, dove sono io, siano anche chi? Quelli che tu m'hai dati. E chi sono quelli che il Padre ha dato a Gesù Cristo? Sono coloro, sono tutti coloro che sono stati eletti in Cristo prima della fondazione del mondo, essendo stati predestinati ad essere adottati come figlioli di Dio, per mezzo di Cristo Gesù, secondo il beneplacito della volontà di Dio, cioè in base, in accordo col suo proponimento. Notate quindi questa richiesta che fece Gesù, e noi sappiamo che questa richiesta è stata ed è esaudita. Vedete, Gesù voleva e Gesù vuole tuttora questo, che dove è Lui siano anche tutti i Suoi discepoli, affinché i Suoi discepoli veggano la Sua gloria. Sì, perché Gesù in cielo è circondato di gloria ed onore, a motivo questo della morte che Lui ha patito per noi tutti. Perché è vero, Gesù si fece ubbidiente, ubbidiente fino alla morte della croce, ma è altresì vero che il Dio gli ha dato, lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni altro nome, al di sopra di ogni nome, affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio in cielo, sopra la terra e sotto la terra, e ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore, alla gloria di Dio Padre. Quindi Gesù in cielo è coronato di gloria ed onore, tutti gli angeli lo adorano, tutti i giusti che sono già là lo adorano. Dio ha detto, tutti gli angeli lo adorino. Quindi egli non è un angelo, egli è Dio, benedetto in eterno, perché solo Dio è degno di ricevere l'adorazione da parte degli angeli, come anche da parte nostra. Solo Dio, e Gesù quindi è Dio, Dio benedetto in eterno. Quindi noi sappiamo questo, che Gesù vuole questo, che dove Lui siano anche coloro che il Padre gli ha dato, e che questa richiesta è stata ed esaudita. Gesù ha anche detto un giorno queste altre parole, al capitolo 12, versetto 26 di Giovanni, c'è scritto: se uno mi serve, mi segua, e là dove sono io, quivi sarà anche il mio servitore. Notate, Gesù predisse che dove sarebbe andato sarebbero andati anche tutti coloro che lo avrebbero servito, e là vanno in realtà tutti coloro che lo servono. Badate bene, in cielo vanno coloro che servono Cristo, non il loro stomaco, non i loro interessi, ma Gesù Cristo. Lo dico questo perché oggi molti, troppi, vengono fatti spacciare come servitori di Cristo, ma sono servi di Mammona, servi del loro stomaco. E la parola di Cristo se la mettono sotto i piedi. Qui Gesù ha detto: dove sono io, qui vi sarà anche il mio servitore. I servi di Mammona in cielo non ci vanno. Ricordatevelo questo. In cielo vanno solo i servi di Cristo Gesù. Quindi noi sappiamo, da quello che dice la Sacra Scrittura, che andremo, quando moriremo, continueremo a vivere con il Signore in cielo, dove appunto Gesù è coronato di gloria ed onore. Il cielo si viene chiamato anche paradiso. Come ho detto prima, in cielo c'è Gesù, ma naturalmente c'è il trono di Dio. Gesù è alla sua destra. Ci sono le quattro creature viventi, poi ci sono i 24 anziani attorno al trono, poi ci sono miriadi, miriadi, miriadi di angeli che adorano sia il Padre che il Figliuolo, e poi ci sono tutte le anime dei giusti che sono appunto là, sono già là. Quindi questo luogo, il paradiso celeste, è un luogo meraviglioso, è un luogo che non ha eguali, non può essere paragonato a nessun luogo sulla faccia della terra. Sapete, molte volte si sente dire, ah, quell'isola è un paradiso, lo chiamano paradiso terrestre. Certamente ci sono dei luoghi molto belli sulla faccia della terra, ancora non contaminati, ma il mare pulito, certamente sono posti deliziosi, ma certamente non possono essere paragonati al paradiso celeste. Il paradiso di Dio è un luogo meraviglioso. La scrittura dice che, dice l'apostolo Paolo, dice in un passaggio che le cose che occhio non ha vedute, che orecchio non ha udite e che non sono salite in cuor d'uomo sono quelle che Dio ha preparate per coloro che lo amano. Considerate in cielo ci sono cose che non sono nemmeno salite in cuor dell'uomo, cose che non esistono sulla terra, si sentono cose che sulla terra non si sentono, perché è un luogo meraviglioso, in un'altra dimensione naturalmente, noi siamo abituati a questa dimensione, ma in cielo è un'altra dimensione. Ora, noi quindi abbiamo questa certezza di andare dopo la morte con il Signore in cielo. Naturalmente questa certezza si fonda sulla testimonianza della Sacra Scrittura e la testimonianza dello Spirito Santo che è in noi. La Sacra Scrittura dice: chi crede ha vita eterna. Il Dio ci ha donato la vita eterna. Quindi, stando così le cose, noi possiamo dire che quando morremo, continueremo a vivere, vivremo col Signore, andremo a vivere col Signore. Questa non è presunzione, questa non è arroganza, questa è semplicemente fiducia nella parola di Dio, che è verità. La parola di Dio non può mentire, perché Dio non può mentire. È impossibile che Dio abbia mentito. Se dice chi crede ha vita eterna, chi crede nel Figliolo ha la vita, la Bibbia vuole dire quello che dice. Quindi tutti coloro che hanno creduto nel Signore Gesù Cristo, mediante la loro fede, hanno ottenuto non solo la remissione dei loro peccati, ma anche la vita eterna. Quindi per la grazia di Dio, mediante la fede. La vita eterna, come la remissione dei peccati, non sono cose che si possono meritare, non sono cose che si possono non si possono comprare, perché non sono in vendita. Anche se alcuni nel corso dei secoli l'hanno messo in vendita, ma invano, illudendo loro stessi e quelli che naturalmente pensavano di comprare sia la vita eterna che il perdono dei peccati, no, sono cose che il Signore dà gratuitamente a tutti coloro che credono in Lui, a tutti coloro a cui vuole Lui darli, perché naturalmente non ci dobbiamo mai dimenticare che non dipende dunque né da chi corre né da chi vuole, ma da Dio che fa misericordia. Quindi la nostra anima si dipartirà e andrà con il Signore. Questa era la fiducia che avevano gli apostoli. Prendete Secondo Corinzi capitolo 5, versetto, Secondo Corinzi capitolo 5, versetto 1. L'Apostolo dice: noi sappiamo infatti che se questa tenda che è la nostra dimora terrena viene disfatta, noi abbiamo da Dio un edificio, una casa non fatta da mano d'uomo, eterna nei cieli. Qui si parla di una casa eterna nei cieli. Quindi cose che non si vedono con questi occhi, ma che esistono. Una casa fatta naturalmente non da mano d'uomo, quindi è fatta da Dio ed è eterna nei cieli. E là vanno appunto tutti i discepoli di Cristo. E in virtù di quello che dice la Sacra Scrittura e che lo Spirito gli attesta, perché lo Spirito gli attesta che sono figlioli di Dio, essi possono con ogni franchezza dire che desiderano di partirsi da questo corpo e andare ad abitare col Signore. Possono tranquillamente farlo, lo possiamo tranquillamente fare come lo facevano gli apostoli. Ascoltate quello che dice sempre l'apostolo Paolo in merito a questa piena fiducia che aveva lui assieme ai suoi collaboratori, cioè questa fiducia di andare con il Signore, di dipartirsi dal corpo e poi andare con il Signore. Capitolo 5, secondo Corinzi, capitolo 5, versetto 6. Noi siamo dunque sempre pieni di fiducia e sappiamo che mentre abitiamo nel corpo siamo assenti dal Signore, poiché camminiamo per fede, non per visione. Ma siamo pieni di fiducia e abbiamo molto più caro di partire dal corpo ed abitare col Signore. Ed è perciò che ci studiamo ad essergli grati, sia che abitiamo nel corpo, sia che ne partiamo. Quindi notate, l'apostolo Paolo desiderava dipartirsi dal corpo e andare ad abitare col Signore. Quindi dipartirsi dal corpo per un cristiano equivale ad andare ad abitare con il Signore. Per usare un termine, un'espressione che si usa spesso, che usiamo spesso sulla terra, diciamo che quando un credente muore trasloca, tra virgolette, nel senso che passa da questa tenda a una casa eterna, non fatta da mano d'uomo, nei cieli. Quindi è una sorta di trasloco. Egli si diparte da un luogo per andare in un altro luogo, si diparte da una tenda per andare in una casa. Si diparte da questo mondo, da questa valle di lacrime, per andare in un paradiso, nel paradiso celeste, dove regna la pace, dove Dio fa regnare la pace, dove c'è la gloria di Dio, che illumina tutto e tutti. Ecco dunque il desiderio che avevano gli apostoli, quello di dipartirsi dal loro corpo per andare ad abitare con il Signore. Sì, perché andare ad abitare con il Signore è cosa di gran lunga migliore. Paolo lo spiega questo, lo spiega ai Filippesi, quando gli dice al capitolo 1, versetto 21, poiché per me il vivere è Cristo e il morire guadagno, ma se il continuare a vivere nella carne rechi frutto all'opera mia, e quel che io debba proferire non saprei dire, io sono stretto dai due lati. Ho il desiderio di partire ed essere con Cristo, perché è cosa di gran lunga migliore, ma il mio rimanere nella carne è più necessario per voi. Quindi Paolo era combattuto, nel senso che da un lato aveva il desiderio di partire, vedete, qui parla ancora di dipartenza, perché quando uno muore avviene una dipartenza, è l'anima che si diparte dal corpo, il corpo rimane sulla terra e l'anima si diparte. E doveva appunto ad abitare con il Signore. Infatti dice: ho il desiderio di partire ed essere con Cristo. Quindi la dipartenza dal corpo equivale a un essere con Cristo in cielo, perché Cristo è in cielo. Perché dice Paolo? Cosa di gran lunga migliore, di gran lunga migliore. Non è che ha detto semplicemente è meglio andare col Signore, no. Cosa di gran lunga migliore. Però Paolo era naturalmente anche consapevole che il suo rimanere nella carne, cioè se fosse rimasto a vivere sulla terra, ciò naturalmente sarebbe stato di edificazione ai credenti. Mentre la sua dipartita non avrebbe recato alcun giovamento ai credenti, anzi avrebbe provocato un grande dolore, lui era conscio che invece il suo rimanere nella carne sarebbe stato più necessario per loro, certo, perché l'Apostolo Paolo avrebbe continuato a edificare quei credenti in virtù della grazia che lui aveva ricevuto da Dio, che era appunto quella di edificare la Chiesa e non di distruggerla. Quindi gli apostoli avevano questa ferma fiducia nel Signore e la confessavano, la proclamavano. D'altronde ha detto l'Apostolo Paolo: io ho creduto, perciò ho parlato. Chi ha creduto parla. Lo ripeto, chi ha creduto parla. Perché? Perché ha quello spirito di fede che è in quella scrittura che dice: io ho creduto, perciò ho parlato. Dall'abbondanza del cuore la bocca parla, disse Gesù. Ora, se nel cuore noi abbiamo la fede in Cristo, se noi nel cuore abbiamo la parola di Cristo, noi non possiamo quando parliamo, non possiamo non esprimere la nostra ferma fiducia in Gesù Cristo. Non possiamo non proclamare con fermezza, con ogni franchezza, le parole di Cristo Gesù, che sono spirito e vita. Ah, non importa se veniamo presi per arroganti, per presuntuosi, soprattutto dai cattolici romani, perché loro, quando noi gli diciamo che abbiamo la vita eterna, che quando moriremo andremo con il Signore, ah, voi siete dei presuntuosi, la prima cosa, ah, voi siete degli arroganti, ma come fate a essere così sicuri? Ma come? Siete così perfetti da andare in cielo con il Signore subito? Beh, noi quanto alla coscienza siamo stati resi perfetti, ma non mediante le nostre opere buone, non mediante sforzi umani, no. Siamo stati resi perfetti quanto alla coscienza mediante il sangue prezioso di Gesù Cristo, che ci ha purificato e ci purifica da ogni peccato. E in virtù dell'opera meravigliosa e gloriosa che ha fatto il sangue di Gesù e continua a fare, perché è il sangue di Gesù che ci purifica tuttora dai nostri falli, dalle nostre trasgressioni, ebbene, in virtù di questa opera meravigliosa, noi abbiamo la certezza che quando moriremo andremo col Signore. Perché il Signore non può avere mentito. Lo ripeto, è impossibile che Dio menta. Il Dio non può dire bugie. Sia Dio riconosciuto, verace, ma ogni uomo bugiardo. Quindi, chiunque viene a voi e cerca di insinuare, di stillare nella vostra mente il dubbio riguardo alla salvezza dell'anima vostra, riguardo alla certezza della vita eterna, la certezza della salvezza, sappiate che quello non viene da Dio, non parla da parte di Dio, perché gli apostoli avevano la certezza della salvezza dell'anima loro. E questa infondevano mediante le loro parole, non dubbi, non incertezze, ma certezza nei credenti infondevano. L'Apostolo diceva: siate miei imitatori come io lo sono di Cristo. Noi dobbiamo imitare l'Apostolo Paolo. Perché? Perché l'Apostolo Paolo imitava Cristo. Anche nel parlare dobbiamo imitare l'Apostolo Paolo, parlare come parlava l'Apostolo Paolo, perché le sue parole sono parole sane. Quindi, la dipartenza, in base alle parole dell'Apostolo Paolo, la dipartenza dal corpo equivale ad andare a vivere con il Signore, andare ad abitare con il Signore. Pure l'Apostolo Pietro parlò della sua morte in termini di dipartenza. Ascoltate quello che disse l'Apostolo Pietro nella sua seconda epistola. Voi sapete che l'Apostolo Pietro era uno dei dodici. Era uno dei dodici e scrisse appunto due epistole, e in una di queste epistole disse queste parole. Allora, al capitolo 1, versetto 12 di seconda epistola. Perciò avrò cura di ricordarvi del continuo queste cose, benché le conosciate e siate stabiliti nella verità che vi è stata recata. Estimo cosa giusta, finché io sono in questa tenda, di risvegliarvi ricordandovele, perché so che presto dovrò lasciare questa mia tenda, come il Signore nostro Gesù Cristo me lo ha dichiarato, ma mi studierò di far sì che dopo la mia dipartenza abbiate sempre modo di ricordarvi di queste cose. Vedete? Anche qui si parla di una dipartenza da una tenda, che è appunto la tenda del corpo umano. E lui sapeva appunto che presto avrebbe dovuto lasciare quel corpo, naturalmente lasciarlo per andare ad abitare con il Signore, che è cosa di gran lunga migliore, come ha detto l'Apostolo Paolo. Ora, anche Giovanni ha confermato che la morte dei cristiani è un trapasso, è un passare, equivale a un passare da questo mondo al paradiso dove c'è il Signore. Giovanni, il discepolo che Gesù amava, ha scritto nell'Apocalisse, nel libro dell'Apocalisse che lui mandò alle sette chiese dell'Asia per ordine di Dio. Lui scrisse questo libro per ordine di Dio e lo mandò appunto agli angeli delle sette chiese dell'Asia, e il Signore appunto gli fece vedere delle cose e gli disse appunto di scriverle queste cose, e tra le cose che lui vide ci sono queste, ascoltate, capitolo 6 dell'Apocalisse al versetto 9. Dice Giovanni: quando ebbe aperto il quinto suggello, io vidi sotto l'altare le anime di quelli che erano stati uccisi per la parola di Dio e per la testimonianza che avevano resa, e gridarono con gran voce dicendo: fino a quando, nostro Signore, che sei santo e verace, non fai tu giudicio e non vendichi il nostro sangue su quelli che abitano sopra la terra? E a ciascun d'essi fu data una veste bianca, e fu loro detto che si riposassero ancora un po' di tempo, finché fosse completo il numero dei loro conservi e dei loro fratelli che hanno ad essere uccisi come loro. Ora, Vorrei che notaste alcune cose in merito a queste parole, cioè a queste cose che vide e sentì Giovanni. Innanzitutto Giovanni vide le anime di quelli che erano stati uccisi a motivo della parola di Dio, quindi le anime si possono vedere in cielo, notate qui. Ora, è evidente che se erano stati uccisi, il loro corpo era rimasto sulla terra. Allora che cosa vide appunto in cielo Giovanni? Le anime di quelli che erano stati uccisi. Quindi l'anima non è il corpo. Questo conferma pienamente le parole di Gesù: non temete coloro che uccidono il corpo, ma non possono uccidere l'anima. Perché? Notate che qui era stato ucciso il corpo di questi credenti, ma non l'anima. Non l'anima, perché l'anima si era dipartita ed era ascesa in cielo ed era presso l'altare in cielo. Quindi notate attentamente queste parole. E quelle anime gridavano con gran voce dicendo alcune cose. E tra le altre cose, dicevano così: fino a quando, nostro Signore, che sei santo e verace, non fai tu giudice e non vendichi il nostro sangue su quelli che abitano sopra la terra? Quindi, vedete, si ricordavano queste anime di essere stati uccisi sulla terra. Avevano memoria, quindi, erano in uno stato cosciente, perché vorrei che notaste che dice che gridavano con gran voce. Quindi un'anima può gridare con gran voce. Poi non solo fu loro risposto, ma innanzitutto gli fu data una veste bianca. Quindi l'anima può essere rivestita di una veste bianca. E poi appunto fu loro detto qualcosa. Che cosa fu loro detto? Che si riposassero ancora un po' di tempo. Che cosa significa? Che già si stavano riposando, perché se fu loro detto che si dovevano riposare ancora un po' di tempo, significa che già era in atto un riposo, cioè già loro si stavano riposando. E questo che cosa conferma? Che quando si muore nel Signore si entra in un riposo, perché ci si riposa. Badate bene, è un riposo cosciente, non è uno stato incosciente, ma è uno stato cosciente in cui appunto ci si trova e in cui ci si riposa dalle fatiche compiute sulla faccia della terra. Che disse quella voce che disse quella voce che sentì Giovanni e che appunto lui ha riferito, ha trascritto nel libro dell'Apocalisse? Ascoltate quello che dice Giovanni, capitolo 14 dell'Apocalisse, versetto 13. E udì una voce dal cielo che diceva: scrivi, beati i morti che da ora innanzi muoiono nel Signore. Sì, dice lo Spirito, essendo che si riposano dalle loro fatiche, poiché le loro opere li seguono. Quindi, notate bene, sono felici quelli che muoiono nel Signore per questa ragione, perché si riposano dalle loro fatiche. Quindi, tutti coloro che muoiono nel Signore entrano in un riposo, che è il riposo di Dio, di cui si parla nell'Epistola agli Ebrei, capitolo 4 dell'Epistola agli Ebrei. Ascoltate quello che dice lo scrittore, capitolo 4, versetto 9: resta dunque un riposo di sabato per il popolo di Dio, poiché chi entra nel riposo di lui si riposa anch'egli dalle opere proprie, come Dio si riposò dalle sue. Studiamoci dunque ad entrare in quel riposo, onde nessuno cada seguendo lo stesso esempio di disubbidienza. Qui si riferisce all'esempio di disubbidienza che ci hanno lasciato gli israeliti, che appunto non poterono entrare nel riposo a motivo della loro incredulità. Allora qui è evidente in queste parole che veniamo esortati a perseverare nella fede fino alla fine per poter poi entrare nel riposo di sabato per il popolo di Dio. E appunto chi entra in questo riposo si riposa dalle sue opere, come Dio si riposa dalle sue il settimo giorno. Vedete, il sabato che Dio aveva ordinato agli ebrei di osservare, di santificare, cioè il settimo giorno della settimana, era un'ombra appunto del riposo che Dio ha preparato per i suoi santi. In sostanza, mentre di sabato gli ebrei si dovevano riposare, perché lì si riposavano dalle loro fatiche settimanali, quindi quando entravano in quel giorno di sabato si riposavano. Adesso invece questo riposo di sabato per il popolo di Dio è un riposo in cui si entra dopo morti. Non siamo ancora entrati in questo riposo, perché c'è scritto che chi entra nel riposo di lui si riposa dalle opere proprie, e noi qui sulla terra non abbiamo la possibilità di riposarci in maniera definitiva dalle opere compiute per amore del Signore. Quindi chi entra in questo riposo che fu adombrato, questo riposo fu adombrato dal sabato. Il sabato dunque è semplicemente un'ombra del vero riposo nel quale entrano tutti coloro che hanno creduto nel Signore Gesù Cristo e mantengono ferma fino alla fine la fiducia che avevano da principio. Infatti vedete che c'è scritto: studiamoci dunque ad entrare in quel riposo. E come si può entrare in questo riposo se non perseverando nella fede fino alla fine? Che disse Gesù un giorno ai suoi? Con la vostra perseveranza guadagnerete le anime vostre. Notate? Certo, le guadagnerete perché le anime vostre entreranno nel riposo di Dio. Quindi l'anima viene, la si guadagna quando si muore in Cristo, invece l'anima la si perde se ci si tira indietro, perché dice: il mio giusto vivrà per la sua fede, se si tira indietro l'anima mia non lo gradisce, come dice anche un passo: ricevete con mansuetudine, lo dice Giacomo questo nella sua epistola, dice ricevete con mansuetudine la parola che è stata piantata in voi e che può salvare le anime vostre, capitolo 1 versetto 21 di Giacomo. Quindi vedete, l'anima nostra noi la possiamo guadagnare, noi la possiamo guadagnare perché dice con la vostra perseveranza. Quindi perseverando fino alla fine nella fede noi guadagneremo l'anima nostra, noi ritenendo la parola di Dio che è stata piantata in noi fino alla fine. Noi ci salveremo nel senso, perché la parola di Dio è quella che ci salva, perché dice la parola che può salvare le anime vostre, è la parola di Dio che salva le anime nostre, naturalmente a condizione che noi riteniamo ferma sino alla fine la fede che avevamo da principio. Come ho detto prima, dice anche la scrittura, se si tira indietro il mio giusto, se si tira indietro l'anima mia non lo gradisce. E infatti, se il Signore non gradisce, che significa? È che quello va in perdizione. Infatti dice, noi non siamo poi, dice, di quelli che si traggono indietro a loro perdizione, ma di quelli che hanno fede per salvare l'anima. Notate ancora una volta, qui si parla dell'anima. Quindi dobbiamo ritenere ferma sino alla fine la fede, perché questa fede nella parola di Dio è potente a salvare le anime nostre. Studiamoci appunto di ottenere il fine della nostra fede, la salvezza delle anime nostre. Badiamo bene a noi stessi, perché il nemico, che sa quanto valore ha l'anima dell'uomo, il nemico, voi sapete, va attorno a noi a guisa di leone ruggente cercando chi possa divorare. Cercando chi possa divorare, che significa? Che lui cerca in tutte le maniere di far sì che un credente abbandoni il retto cammino, che il credente getti via la fede che ha in Cristo. Sì, proprio che la getti via, perché sa che in questa maniera l'anima sua non la potrà guadagnare, ma la perderà. E come disse Gesù, che giova all'uomo se guadagna tutto il mondo e poi perde l'anima sua? A che serve? A che serve veramente tirarsi indietro per andare dietro ai piaceri del peccato che durano per così poco? A che gioverà tutto ciò? Giova solo una cosa, a far andare in perdizione tutti coloro che appunto si tirano indietro. Ma, dice lo scrittore, noi non siamo di quelli che si traggono indietro a loro perdizione, ma di quelli che hanno fede per salvare l'anima. E quindi di fondamentale importanza, fratelli nel Signore, conservare la fede per salvare l'anima nostra. Ricordatevi dell'apostolo Paolo, che prima di morire, prima della sua dipartenza, disse: ho combattuto il buon combattimento, e poi disse anche: ho finito la corsa, ho serbato la fede. Vedete, aveva conservato la fede. Il nemico sicuramente aveva cercato di fargliela gettare via, quella fede, ma lui l'aveva conservata. E allora poteva dire: del rimanente mi è riservata la corona di giustizia che il Signore, il giusto giudice, mi assegnerà in quel giorno, e non solo a me, ma anche a tutti quelli che avranno amato la sua apparizione. E non solo poteva dire queste parole, poteva dire anche quest'altre parole. Ascoltate che cosa disse l'apostolo Paolo, sempre in questa epistola. Dice così al versetto 18 del capitolo 4 di Seconda Timoteo: il Signore mi libererà da ogni malazione e mi salverà nel suo regno celeste. Perché poteva dire il Signore mi salverà nel suo regno celeste? In virtù del fatto che aveva conservato la fede fino alla fine. Allora, se noi conserviamo la fede fino alla fine, che potremmo dire anche noi: il Signore mi salverà nel suo regno celeste. Quindi immediatamente dopo la morte, per la grazia di Dio, lo ripeto, per la grazia di Dio, non per le nostre opere, non per i nostri sacrifici, ma per la grazia di Dio, noi entreremo nel riposo di Lui, ci riposeremo dalle nostre fatiche, andremo in quel luogo dove la gloria di Dio illumina tutti, dove gli angeli cantano all'agnello, dove si sta bene, si sta molto bene, molto meglio che di quanto si stia sulla terra. Noi stiamo bene sulla terra, nel senso che con il Signore si sta bene sulla terra, non si sta male. In Cristo abbiamo ogni cosa. Come possiamo dire che stiamo male? Possiamo essere afflitti, tribolati, perseguitati, ma non possiamo dire che col Signore si vive male. Col Signore si vive bene. Se non si vive bene con il Signore, con chi si vive bene? si viveva male senza il Signore, si viveva male senza il Signore, ma con il Signore si vive bene. Solo che siccome che abitiamo in questa tenda, in questo corpo corruttibile, in questo corpo debole, è evidente che siamo sottoposti a tribolazioni di vario genere, lotte di vario genere, afflizioni, piangiamo, facciamo lutto quando muore uno dei nostri cari, insomma, queste sono tribolazioni, questi sono patimenti, queste sono sofferenze, ma in Cristo, in virtù di colui che ci ha amato, noi siamo più che vincitori in tutte queste cose. Appunto, proprio perché siamo ancora in questa tenda che si disfa quotidianamente, giorno dopo giorno, ecco perché naturalmente noi patiamo, soffriamo e abbiamo il desiderio di partire ed essere con Cristo, perché sappiamo che con il Signore si sta molto meglio, di gran lunga migliore andare con il Signore. È già una cosa bella stare con il Signore, vivere con il Signore in questa tenda, certamente, il Signore è con noi, ha detto io sono con voi, quindi tutti i giorni. Sino alla fine dell'età presente, quindi noi abbiamo questa fiducia che il Signore è con noi, anche se non lo vediamo, abbiamo questa grande gioia perché Lui dimora in noi, perché Lui è ogni cosa, è la nostra pace, è la nostra salvezza, la nostra speranza, la nostra gioia, è la vita eterna, è la nostra vita, è il Signore Gesù Cristo, è ogni cosa. Noi stiamo veramente bene, in Lui abbiamo tutto pienamente, solo che in cielo staremo meglio perché appunto là non c'è più dolore. Là non c'è più afflizione, là non ci sono più lotte da patire, là non c'è più un combattimento da effettuare, il combattimento è qui sulla terra che dobbiamo effettuarlo. Là non c'è più una corsa da correre, perché l'Apostolo Paolo diceva ho finito la corsa, evidentemente lui non avrebbe continuato a correre dopo la morte, però è sulla terra che si corre, non è che in cielo che si corre, l'aringo. E sulla terra che dobbiamo vegliare e pregare per non cadere in tentazione. Poi lassù nel cielo è tutta un'altra dimensione, là veramente è tutta un'altra cosa, è cosa di gran lunga migliore, come dice l'Apostolo Paolo. Quindi noi sappiamo dove stiamo andando per la grazia di Dio e sappiamo anche qual è la via che conduce a questo luogo. Qual è la via? Gesù Cristo. Gesù disse io sono la via. Gesù disse io sono la via. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Nessuno può andare in cielo se non per mezzo di Cristo Gesù. Gesù lo disse ai suoi, del dove io vo, voi sapete anche la via. Quindi sappiamo dove andiamo, sappiamo qual è la via, questa via naturalmente dobbiamo seguire fino alla fine. Sappiamo certamente che la morte ancora colpisce. Quantunque Gesù abbia distrutto la morte, però la morte ancora regna, perché ancora ci sono persone che muoiono. Tanti nostri fratelli sono morti, sono già morti e sono andati con il Signore. È un evento luttuoso la morte, anche per noi cristiani, però sappiamo che con la morte non finisce tutto, ma con la morte inizia una vita migliore lassù nel cielo con Cristo. Vedete, nel Salmo 116 ci sono delle parole che sono di grande consolazione per i santi, per i credenti. Prendete il Salmo 116, al versetto 15, nella riveduta, e queste parole sono state tradotte in questa maniera: cosa di grande momento agli occhi dell'Eterno, la morte dei suoi diletti. Nella versione Diodati è scritto che la morte dei santi del Signore è preziosa nel suo cospetto. Certo, perché è un evento molto importante la morte degli eletti del Signore, è il giorno quello in cui il Signore accoglie nella gloria i suoi eletti. Vedete cosa diceva Paolo? Il Signore mi salverà nel suo regno celeste. Diceva il salmista, tu mi condurrai col tuo consiglio, poi mi riceverai in gloria. È un grande giorno la morte degli eletti del Signore. perché in quel, è un giorno di vittoria, certo, perché? Perché il credente ha perseverato sino alla fine nella fede. Muore in Cristo perché ha serbato la fede, e questo significa che ha resistito agli attacchi del diavolo, perché solo chi resiste agli attacchi del diavolo conserva la fede fino alla fine, rimane saldo nella fede fino alla fine. E quindi è un giorno di vittoria, è un giorno di vittoria in cui il credente si diparte da questa terra e va in paradiso per la grazia di Dio. Ora voglio leggervi due testimonianze per concludere appunto questo insegnamento, due testimonianze che mi sono state di grande consolazione e che sono tuttora di grande consolazione, di credenti che sono morti e sono andati con il Signore e poi sono tornati sulla terra. E la prima testimonianza che vi leggerò, parte di questa testimonianza, che è contenuta in un libro scritto molti anni fa da una sorella che si chiamava Lura Johnson Grubb. Questo libro, allora, questo libro che lei scrisse appunto dopo che ebbe queste esperienze, si intitola Vivere per parlare di morte. È senza luogo di pubblicazione, senza data, però le parole, ho voluto estrapolare alcuni passi da questa bella testimonianza, perché queste testimonianze, appunto la prima è questa di questa sorella e poi c'è quella di un fratello, queste testimonianze confermano in maniera chiara che quello che aspetta il credente dopo la morte è la gloria, è il cielo, è il paradiso, e che là vanno tutti coloro che hanno serbato la fede fino alla fine, esattamente come dice la Sacra Scrittura. Non pensate che la Bibbia voglia dire un'altra cosa. Non mi stancherò mai di dire, come leggi, che sta scritto, come leggi, perché quello che è scritto è parola del Signore. Non bisogna avere nella maniera più assoluta nessun dubbio in quello che si legge, anche se non lo si capisce appieno, ma noi dobbiamo avere fiducia in quello che è scritto, perché poi tutto ciò è confermato dal Signore. Queste testimonianze non fanno altro che confermare passi della Scrittura che sono così chiaramente scritti, come quelli appunto che vi ho letto poco fa. Ascoltiamo quello che questa sorella raccontò. Prima racconterò una visione che lei ebbe, perché lei era malata a quel tempo, era giovane, e mentre era sul letto di infermità ebbe una visione. Poi lei fu guarita, però mentre si trovava inferma sul letto ebbe questa, l'avevano data per spacciata, quindi quello che lei aspettava ormai era la morte, l'avevano data per spacciata e lei ricevette questa visione dal Signore. Poi dopo appunto che ebbe questa visione, lei racconta come proprio si è dipartita dal corpo, è andata in cielo e poi è tornata appunto perché il Signore l'ha rimandata sulla terra. Ascoltate la visione. Vidi un gran fascio di luce, più brillante del sole di mezzogiorno, che scendeva verso di me direttamente dal cielo. Un alone luminoso, molto largo, in diametro, circoscriveva quel raggio di gloria che aveva come meta il mio capezzale. Il letto sembrava infuocato dal suo chiarore. Mi sentii sollevare dal raggio luminoso e trasportare in una città a me sconosciuta. Mi ritrovai alle porte di perla. Esse abbagliavano di splendore nella luce trasparente del cielo. Un altro passo ancora ed entrai nella città di Dio e mi trovai sulle strade d'oro simili a vetro trasparente. Tutto splendore intorno a me, ma quello splendore non era il riverbero di nessun sole. Non c'era bisogno del sole per illuminare durante il giorno né della luna di notte. L'eternità celeste è costantemente illuminata dalla presenza continua della luce di gloria. mentre attonita contemplavo la magnificenza che mi circondava, pensai, ma certamente questo è il cielo. Il cielo era il luogo più meraviglioso di cui avessi mai udito parlare o letto sulla terra. Sicuramente questo deve essere il cielo, e se lo è, allora Gesù deve essere qui. Conclusi in me stessa, Gesù era là. La luce sfolgorante che irradiava dal trono di Dio mi accecò. Vidi il Padre come un fuoco consumante, può darsi come Mosè lo descrisse. E alla sua mano destra vidi Gesù, il mio Signore. In un primo tempo lo vidi molto impercettibile, la vista mi si era velata ed offuscata a causa del chiarore eccezionale. Desideravo ardentemente vedere Gesù. Lo volevo vedere chiaramente ed essere certa, senza tema di sbagliare, che era il mio Signore. Così alzai le mani sul volto e stropicciai gli occhi. Dopo di ciò potei vedere senza impedimento. Era Gesù, era il mio Salvatore, ed egli mi guardava. I suoi occhi erano fissi nei miei stanchi ed affaticati dalle pene. Il suo sguardo amorevole era così pieno di compassione, di comprensione, di simpatia che il mio cuore si commosse dentro di me. Quello sguardo mi affascinò e con tutta l'anima esaltai la sua maestà. Mentre ero così assorta nell'adorazione del mio Signore, udii concerti di musica fluttuanti sulle onde luminose del cielo. Era una musica perfetta, non si udivano note discordanti, ma era così armoniosa che volli conoscerne la provenienza. Sebbene a malincuore distolsi gli occhi e mi volsi a guardare da quella parte. A distanza vidi la schiera dei santi che in vestimenti bianchi marciavano ordinatamente e pieni di adorazione verso il trono di Dio. Erano numerosi e simili alla moltitudine di cui Giovanni il Rivelatore scrisse di migliaia, di decine di migliaia, di decine di migliaia. Essi mi passarono così vicino che avrei potuto stendere la mano e toccarli facilmente. Con mia gioiosa sorpresa vidi alcuni dei miei cari, e Dio li aveva posti nella prima fila. Una mia cugina che si era affiliata alla Chiesa Battista, la stessa mattina in cui io mi ero affiliata, veniva col volto radioso verso di me. Soltanto un anno prima ella era caduta molto malata ed era rapidamente passata da questa valle di lacrime, che è la terra, alla vetta della felicità di Dio. Ella mi passò vicino e mi sorrise come per dire: sono lieta che tu sia qui. I santi marciavano in schiera, saltellando come piume sugli scalini attorno al trono e fluttuando con delicatezza divina, in armonia con l'inno marziale. Discendevano dal lato opposto per scomparire nella distanza luccicante, mentre altri continuavano ad apparire, a pressarsi al trono. Essi marciavano fila dopo fila, numerosi. Quanti miei occhi potevano abbracciarne abbastanza? Oh, come risplendevano di gloria i loro abiti, erano più bianchi della neve e abbagliavano letteralmente la vista. Volevo stare nel cielo, volevo unirmi a quell'esercito celeste e lodare il Signore per sempre, volevo ascoltare quella musica meravigliosa, vedere la gloria e godere la beatitudine. Ma improvvisamente la scena cambiò e i miei occhi fisici si riapersero al mondo naturale. Poco dopo, questa sorella racconta la sua morte e la sua dipartenza. Ascoltate le sue parole adesso. I cari che si erano radunati nella mia casa, pieni di compassione, stavano facendo tutto ciò che era nelle loro possibilità di fare per mantenermi in vita. L'ultimo tentativo lo fece mio zio. Pensando che forse la circolazione del sangue era divenuta troppo povera per riscaldare il mio corpo, chiese alle donne di applicarmi sui piedi e sulle gambe degli asciugamani riscaldati col vapore. Nel momento stesso in cui essi toccarono la mia carne fredda di morte, il corpo si irrigidì ed i piedi si sollevarono di diversi centimetri dal letto. Non si trattava di una insufficiente circolazione, ma della morte che stava prendendo possesso del mio corpo. Sapevo che stavo morendo. Improvvisamente mi sembrò come se il tetto della nostra casa si sollevasse. Mentre il sole irradiava con i primi rosei raggi dell'alba il cielo della campagna del Mississippi, vidi cieli ripieni di miriadi di oggetti simili ad uccelli. La volta celeste era oscurata da quella moltitudine. Essi stavano scendendo giù sempre più in basso, fino a raggiungere un'altezza abbastanza vicina perché io potessi riconoscerli. Era l'esercito del cielo che avevo appena conosciuto poche ore prima. Mentre mi ero trovata alla presenza del Signore, all'improvviso uno di loro si separò e discese fino all'angolo della mia stanza. Qui si arrestò, un istante esitante, vedendo che i miei familiari si stavano accomiatando da me. Mia madre era stata tutto il tempo a fianco del mio letto, continuando a pregare il Signore di lasciarmi in vita. Nel vedere il coro celeste scendente, gridai con debole voce, stanno venendo a prendermi, non li vedete? Vengono per me. Oh, pensavo che tutti coloro che si trovavano nella stanza li vedessero. Io li vedevo chiaramente ed ero certa che essi venivano per me. I parenti e gli amici silenziosamente si alternavano vicino al mio capezzale per deporre l'ultimo bacio sulle mie labbra violacee e mentre si chinavano su di me qualche calda lacrima di dolore veniva a cadere sulle mie gote ghiacce. Le mie sorelle ruppero in singhiozzi nel salutarmi per l'ultima volta. Il mio fratellino mi baciò con tenerezza, ma era troppo piccolo per rendersi conto di ciò che stava avvenendo e del dolore degli adulti, i quali ben conoscevano il significato della morte e le torture di una separazione per sempre. In ultimo mia madre si chinò su di me, mi attirò sul suo seno e pianse. Le dissi, mamma, non piangere, per favore, non piangere, sto lassù, ci incontreremo nuovamente. Molto riluttante e con un sentimento di sconfitta di fronte alla sgradita ombra nera che era venuta a guastare la felicità nel suo piccolo nido, la mamma si raddrizzò e rimase vicino al mio letto. Esalai un ultimo e profondo respiro e dolcemente, senza resistenza, mi dipartì dal corpo per unirmi alla scorta celeste che avevano atteso nell'angolo della stanza e che per ultimo mia madre si fosse accomiatata da me. Mi unì alla guida angelica che mi attendeva in un angolo della stanza ed insieme iniziammo il viaggio verso l'alto. Prima però, nel sollevarmi dal letto, mi volsi a guardare per l'ultima volta il luogo da cui stavo per partire, come la farfalla agile e variopinta si diparte dal bozzolo per entrare nella fragile atmosfera della primavera celeste. Vidi la mamma accasciarsi al suolo e la udì singhiozzare in maniera che temetti che il suo cuore dovesse scoppiare. Quello fu l'unico evento che guastò la perfetta felicità della mia dipartenza. Soffrii nel vedere la mamma così addolorata. Una volta raggiunto il suo compagno, l'angelo che aveva disteso il drappo mortuario nella mia casa, la scena della stanza scomparve completamente nell'oblio. Ero grandemente entusiasta al pensiero di tornare nel luogo meraviglioso dell'eternità senza lacrima, di camminare sulle strade pavimentate d'oro e marciare insieme alla schiera dei santi vestiti di bianco, di ascoltare la dolce melodia del canto dei redenti. Ero tanto impaziente, guardavo fisso in alto, aspettando di vedere ad ogni istante apparire sull'orizzonte degli spazi il primo raggio di gloria che si annunciasse la città di Dio. Continuammo a fluttare verso l'alto, sempre più in alto, attraverso gli spazi, per un certo tempo. Improvvisamente il silenzio fu rotto. Il mio compagno parlò e disse, «Tu non puoi andare ancora lassù». Ripetei fra me, «Non posso ancora andare lassù». «E perché mai?» Credevo invece che fossimo quasi arrivati, ma prima ancora che potessi dire qualche cosa, egli proseguì, «Il Signore ha del lavoro per te». «Lavoro per me?» continuai a chiedermi. L'angelo spiegò, «Il Signore vuole mandarti sulla terra nuovamente per avvisare la gente che Gesù torna presto». Guardandomi attorno, mi ritrovai tutta sola. La mia guida angelica era scomparsa ed il Signore non era visibile in nessuna parte. Lentamente cominciai a discendere giù, sempre più in basso, fino a che non avvistai in lontananza il profilo della piccola casa in cui giaceva il mio corpo fisico privo di vita. Durante i 45 minuti in cui ero stato assente ed il mio corpo era rimasto privo di respirazione e circolazione, il Signore aveva operato nel cuore di mia madre. Quando avevo esalato l'ultimo respiro e lo zio aveva detto «è morta», la mamma, dopo avere qualche istante dato sfogo al dolore, era corsa nell'attigua stanza da letto, si era prostrata in ginocchio e, sepolto il volto fra le coltri del letto, aveva gridato al Signore, «Signore, per 3 anni ti ho chiesto di guarire la mia figliola, a te l'ho chiesto come meglio ho potuto, in questi 6 ultimi giorni ho digiunato e pregato, Signore, ho fatto tutto ciò che ho saputo fare». Ed ora, malgrado la sua vita sia spenta, tu sei potente di ridarmi la mia figliuola. Ridammi la mia figliuola, Signore caro, ridammela. Il Signore ascoltò il suo grido e le parlò in maniera udibile. Tu hai chiesto la guarigione della tua figliuola, ma sei disposta a consacrarla a me? La mamma non aveva mai pensato a ciò. Aveva pregato per la mia guarigione perché mi voleva per sé. In quel momento ella comprese e disse, «Sì, Signore, te la consacrerò. Se tu le ridai la vita, ella poi potrà andare dove tu vorrai ed io non alzerò un dito per impedirglielo». Figurativamente parlando, proprio come il padre Abramo depose Isacco sull'altare, così mia madre mi depose sull'altare del servizio di Dio. Ella consentì alla richiesta del Signore. Il Signore le disse: asciugati gli occhi, ho ascoltato la tua preghiera, vai e vedi ciò che io, il Signore, ho fatto. In fede ed ubbidienza alla voce divina, ella si alzò dal suo monte Moria e fiduciosa entrò nella mia stanza. Si diresse subito verso il mio letto, sul quale giaceva un corpo senza vita, non vi era respiro, non vi era battito. Aveva il Signore veramente parlato? Avrebbe egli risposto alla preghiera? Si era forse sbagliata? Ella era certa che Dio aveva parlato, egli avrebbe risposto, non si era sbagliata, avrebbe perciò atteso fiduciosamente. Gli amici vicini pensavano che quell'assenza di 45 minuti dalla stanza le fosse servita per farla ritornare in sé. Vedendola così serena, non si opposero a che ella si avvicinasse di nuovo al letto della sua figliola e che vi rimanesse tutto il tempo che avesse desiderato. Non sarebbe passato molto tempo che quelle amate spoglie sarebbero state poste per sempre nel profondo seno della terra. La osservavano tutti attentamente, pronti ad intervenire in suo aiuto in caso ce ne fosse bisogno. Nel frattempo mia madre ed io eravamo assenti dalla stanza. I familiari avevano incominciato a disporre ogni cosa per il funerale, che si sarebbe dovuto tenere nelle primissime ore di quel pomeriggio, in maniera che si sarebbe potuto trasportare la salma a Water Valley, a circa 60 chilometri di distanza dalla nostra abitazione, per darle sepoltura nella nostra tomba di famiglia, dove anche il babbo era stato sepolto. I nostri amici vicini si presentarono a dare una mano di aiuto per organizzare il funerale, mentre la mamma si intratteneva nella stanza attigua per fare a Dio una consacrazione completa e permanente in cambio della mia resurrezione. Ora però la mamma si trovava in piedi, a fianco al mio capezzale, aspettando la risposta promessa dal Signore. Egli non era mai venuto meno verso di lei e non lo sarebbe venuto neppure ora. Era immobile, come una statua, con gli occhi sul mio volto cereo e sulle mie labbra livide che, come gli altri pensavano, sarebbero dovute rimanere serrate fino al giorno in cui al suono della tromba di Dio i morti in Cristo risusciteranno. Ma, inaspettatamente, la salma si mise a sedere sul letto. Il miracolo era avvenuto. Il Dio era stato fedele verso mia mamma. Questo è quello che ha scritto la sorella Laura Johnson Grab molti anni fa in questo suo libro, Vivere, per parlare di morte. Quindi, vedete, pienamente confermato che i santi quando muoiono si dipartono dal corpo e vanno in cielo. La seconda testimonianza è di un fratello che si chiama Boris Pilipchuk. È un fratello che vive in Ucraina, che lavora nella forza di polizia, cioè è un poliziotto. E la sua conversione risale al 1996, mentre questa esperienza che lui racconta della sua morte e risurrezione risale al 1998, precisamente al 27 luglio del 1998. Allora, innanzitutto è bene fare una piccola premessa. Lui un giorno ritornò a casa dal lavoro e gli avvenne qualche cosa di particolare. Perse i sensi, rimase completamente paralizzato e perse i sensi. E dopo che lui perse i sensi, fu trasportato di corsa all'ospedale, al reparto di rianimazione. E la diagnosi dei medici fu emorragia cerebrale. E all'ospedale lui rimase in uno stato di incoscienza per diversi giorni. E poi morì. A un certo punto morì, non ci fu più niente da fare, tutti gli sforzi fatti dai medici furono vani e lui morì. E i suoi colleghi di lavoro cominciarono a raccogliere il denaro, che appunto all'ospedale era stato appunto detto che era morto, e cominciarono a raccogliere il denaro per la sua sepoltura. Fu ordinata una bara, insomma era tutto pronto appunto per la sua sepoltura. E sua moglie fu testimone della sua morte, era con lui, e non le fu permesso di entrare nella camera di rianimazione. e mentre lui si trovava nella camera di rianimazione, sua moglie pregava a Dio per la sua salvezza. E dopodiché, quando lui è morto, i medici la informarono della morte, appunto, della sua morte, e dopo 2 ore le fu permesso di accompagnare il corpo di suo marito sulla barella fino alla porta dell'obitorio. Allora, questo fratello Boris racconta il suo, dobbiamo chiamarlo così, la sua dipartenza e la sua permanenza in cielo per un certo periodo di tempo. Ecco che cosa dice questo fratello Boris riguardo alla sua dipartenza. Allora io cominciai ad ascendere dalla terra. La terra diventò sempre più piccola, essa diventò così piccola e poi essa sparì completamente. La mia trasportazione fu accompagnata da un continuo fischio nelle mie orecchie. Poi io finii in un luogo straordinario, che era così illuminato che io cominciai a sentirmi bene. Vidi una scala fatta d'oro che emanava dei raggi di gloria. La scala era piuttosto larga. Su entrambi i lati della scala c'erano delle sbarre d'oro lungo le quali, dal fondo fino alla cima, c'erano degli angeli alati vestiti di bianco, con delle cinture d'oro. I loro capelli erano bianchi, le loro facce splendevano tanto come il lampo, i loro occhi erano come 2 lanterne. Essi avevano delle facce umane, il colore delle loro mani e delle loro gambe era come quello di schegge di rame risplendente. Esteriormente gli angeli erano come gli uomini, attorno alla scala e sotto di essa stavano in piedi un gran numero di angeli di cui non posso descrivere il numero. Questi angeli erano senza ali, tutti gli angeli stavano cantando dei salmi. E sorprendentemente io non sapevo in che lingua essi stavano cantando, ma in quel momento io compresi totalmente le parole del salmo. Essi cantarono: O Signore, tu sei degno di tutta la gloria e di tutta la lode. Tu, Signore, creasti i cieli e la terra, tu sei degno della nostra lode. Poi vidi una luce straordinaria alla fine della scala. Ma la luce non era come quella del sole o di una saldatrice, la quale ha un effetto dannoso sugli occhi. La luce era straordinariamente intensa, ma non faceva male agli occhi, era calda, calmante, piena di gioia e di pace. Io ero pieno di gioia, fino al punto che le semplici parole non possono descrivere come io mi sentivo. La mia gioia continuò ad aumentare, non ci fu nessun limite alla gioia che provai. Io non so come descrivere in parole questa visione e questa sensazione, ma vorrei che voi immaginaste l'immagine che mi mostrò il Signore. Più tardi io sentì una voce che veniva dal posto dove si trovava la meravigliosa luce che disse: Figlio mio, vieni a me, io ti mostrerò qualcosa, io ti aiuterò. Dal mezzo del gran numero di angeli, 2 angeli vennero dietro di me. Uno stette alla mia sinistra e l'altro alla mia destra, proprio a poca distanza da me. Io non voltai indietro la mia testa, io non guardai dietro a me e non guardai attorno a me, ma pareva che io potevo guardare a 360 gradi attorno a me. Io non ero nervoso e non provai nessuna forma di disagio. Ero completamente calmo e così felice fino al punto che non posso descrivere come mi sentii né allora e neppure adesso. Io non feci nessuna domanda a nessuno, come dove mi trovo, che cosa mi è accaduto, che cosa accadrà più tardi. Io mi sentivo completamente fiducioso in me stesso, cioè dentro di lui, come se stavo in un posto familiare. Io mi sentii come se vivessi permanentemente in quel luogo. Poi lo Spirito Santo mi trasferì in una vasta pianura nella quale saltellavano dei cavalli molto belli. Nel centro del campo c'era una grandissima città a forma di cubo. Quando la notai cominciai ad avvicinarmi ad essa. Ma io mi appressai alla città in una maniera differente. Non come un uomo cammina normalmente sul terreno. Io mi spostai senza che i miei piedi toccassero terra. Era come se io stessi scivolando. Gli angeli mi accompagnarono. Più vicino alla città mi appressavo e più intenso fu il piacere che sperimentai da quello che io vidi. C'erano dei muri molto alti, che erano multipli in numero e di differenti colori. C'erano in tutto 12 colori che emanavano raggi e brillavano come una luce risplendente. Più tardi, dopo la mia resurrezione, quando studiai i capitoli 21 e 22 del libro dell'Apocalisse nella Bibbia, io trovai una conferma di quello che avevo visto. Vidi il fondamento della città, che era fatto di 12 pietre preziose di questo mondo. Vidi una porta di perle, 3 porte su ogni muro. La porta di perle era molto grossa, più alta di 2 metri. Io non misurai le porte, ma secondo me una perla era più grande di 2 metri. Io vidi solo 6 porte, perché il Signore mi condusse nella città attraverso uno dei suoi angoli. Io vidi 2 lati del cubo. Poi il Signore mi condusse attraverso una delle porte dentro la città. Come noi passammo attraverso le porte, io vidi due iscrizioni. Una di esse era sopra la porta e la seconda era sotto la porta. Uno dei nomi delle tribù di Israele era scritto sopra la porta e sotto la porta era scritto il nome di un apostolo. Sfortunatamente io non so qual è la porta attraverso la quale il Signore mi condusse dentro la Nuova Gerusalemme, ma ora mi piacerebbe saperlo. Quando entrai nella città attraverso le porte, io stetti immobile in ammirazione. La città era fatta completamente d'oro. L'oro era puro e io, in precedenza, non avevo mai visto un tale splendore. Io avevo visto quanto risplendevano gli oggetti d'oro nei negozi di gioielli, ma questo splendore non era paragonabile a quello splendore che io vidi in quel momento. Strade d'oro, case d'oro, porte d'oro, tutto era fatto d'oro, trasparente come il vetro. Io non avrei mai potuto immaginare che l'oro potesse apparire trasparente e così puro. Io lessi questo nella parola di Dio, ma non lo potevo in realtà immaginare. Questa questione mi era nascosta. Io non potevo proprio immaginare come un metallo duro potesse essere trasparente. Ora che lo vidi, io volevo proprio toccarlo. Io toccai i muri, entrai in alcune case e scrutai tutto. Io non domandai agli angeli dove dovevo andare da questo posto. Sembrava che io conoscessi la strada. Io ero sopraffatto da una tale sensazione come se mi trovavo in un luogo tutto mio. Mentre continuai per la mia strada all'interno della città, vicino al centro, io vidi un grande albero in un posto. L'albero aveva dei frutti a forma di pera su di esso. La grandezza del frutto era circa la grandezza di due pugni di media grandezza messi assieme. Le foglie sull'albero mi ricordarono le foglie di un albero di tiglio, solo che esse erano più grandi e come delle foglie di bardana. Quando arrivai vicino all'albero, io volli prendere un frutto da esso e cominciai a stendere la mano per prenderne uno. Improvvisamente, con entusiasmo, fui sorpreso che la mano che avevo disteso non era come una mano normale, ma era trasparente. Quando stavo per cogliere un frutto, l'angelo che stava a poca distanza dietro di me, sul fianco destro, stese la sua mano e mi fermò. Gesticolando con il suo dito, egli mi disse che per ora io non dovevo cogliere il frutto. Poi accadde qualcosa che non mi aspettavo. Senza nessuna specie di dispiacere, di delusione per l'azione dell'angelo, io lasciai l'albero. Parlando in maniera generale, all'interno della città io non sperimentai mai nessun tipo di disagio o di confusione. Quando lasciai l'albero, io vidi una luce straordinariamente risplendente al centro della città. Fu molto interessante che io non vidi nessuna ombra, né prodotta dagli alberi, neppure dalle case. Non c'erano ombre in quel luogo e non c'erano neppure delle lampade. Io non vidi il sole neppure qualche oggetto che dava luce, ma la luce era straordinariamente risplendente e così piacevole agli occhi, fino al punto che io ero felicissimo oltre misura. Io non posso descrivere adeguatamente con parole l'insolita e straordinaria condizione della mia anima. Quando io vidi il centro dell'illuminazione, io piegai il mio capo e sentii uno schiacciante stimolo a piegare le mie ginocchia, ma l'angelo mi sostenne e sentii una voce. Figlio mio, io ti ho mostrato tutto quello che ti è necessario in questo tempo, e ora tu devi tornare per proclamare la mia gloria, il mio potere e il mio dominio, per proclamare tutto quello che hai visto e sentito. Allora io cominciai a pregare e a implorare il Signore chiedendogli di farmi rimanere in quel posto dove mi trovavo. Io gridai, Signore, io non voglio ritornare. Ma il Signore mi disse, tu hai una moglie e tre bambini, tu devi ritornare per loro perché ancora non è giunto il tempo per te di stare qua. Allora io cominciai di nuovo a implorare il Signore, Signore, io non voglio ritornare, permettimi di rimanere vicino a te. Ma il Signore mi disse, figlio mio, sii mansueto e temperato, non mormorare, torna indietro, tu devi proclamare la mia gloria. E così avvenne appunto che questo fratello, la sua anima rientrò nel corpo e appunto avvenne questa resurrezione nell'ospedale. E nell'ospedale, appunto, dopo che lui risuscitò, ci fu un subbuglio terribile. I medici furono sconvolti nel vederlo tornato in vita, le infermiere pure. Fu veramente una potente manifestazione della gloria di Dio, e alcuni anche poi si sono convertiti in virtù di questa resurrezione avvenuta a questo fratello Boris. E quindi vedete, sia la sorella che il fratello hanno parlato di una città. E sì, perché in cielo c'è una città che è chiamata la Nuova Gerusalemme o la Gerusalemme di sopra. E di questa città ne parla in maniera dettagliata, di questa città Giovanni, il discepolo che Gesù amava, perché lui la vide. La vide. E gli fu mostrata appunto la santa città, la Gerusalemme di sopra, o la nuova Gerusalemme. Adesso, appunto, leggiamo quello che dice la Bibbia a riguardo di questa città celeste. Perché noi crediamo che questa è una vera città. Noi non riteniamo che la nuova Gerusalemme sia un simbolo che rappresenti qualche cosa. Assolutamente. Questa è la città che ha i veri fondamenti, è il cui architetto e costruttore Dio. È la città che aspettavano i patriarchi. Abramo aspettava questa città. E noi aspettiamo questa stessa città, la nuova Gerusalemme. Ecco che cosa dice Giovanni che la vide. Capitolo 21 dell'Apocalisse, versetto 9, e venne uno dei sette angeli che avevano le sette coppe piene delle sette ultime piaghe, e parlò meco dicendo, vieni, e io e ti mostrerò la sposa, la moglie dell'agnello, e mi trasportò in spirito su di una grande ed alta montagna, e mi mostrò la santa città, Gerusalemme, che scendeva dal cielo da presso a Dio, avendo la gloria di Dio. Il suo luminare era simile a una pietra preziosissima, a guisa d'una pietra di diaspro cristallino. Aveva un muro grande ed alto, aveva 12 porte, alle porte 12 angeli, e sulle porte erano scritti dei nomi, che sono quelli delle 12 tribù dei figli di Israele. A oriente c'erano 3 porte, a settentrione 3 porte, a mezzogiorno 3 porte, ad occidente 3 porte, e il muro della città aveva 12 fondamenti, e su quelli stavano i 12 nomi dei 12 apostoli dell'agnello. E colui che parlava meco aveva una misura, una canna d'oro per misurare la città, le sue porte e il suo muro, e la città era quadrangolare, e la sua lunghezza era uguale alla larghezza. Egli misurò la città con la canna, ed era 12.000 stadi. Guardate che uno stadio equivale a 185 metri. La sua lunghezza, la sua larghezza e la sua altezza erano uguali. Ne misurò anche il muro ed era di 144 cubiti. Un cubito era circa 48 centimetri. A misura d'uomo, cioè d'angelo, il muro era costruito di diaspro e la città era d'oro puro, simile a vetro puro. I fondamenti del muro della città erano adorni d'ogni maniera di pietre preziose. Il primo fondamento era di diaspro, il secondo di zaffiro, il terzo di calcedonio, il quarto di smeraldo, il quinto di sardonico, il sesto di sardio, il settimo di crisolito, l'ottavo di berillo, il nono di topazio, il decimo di crisopazio, l'undecimo di giacinto, il dodicesimo di ametista, e le 12 porte erano 12 perle, e ognuna delle porte era fatta d'una perla, e la piazza della città era d'oro puro, simile a vetro trasparente. E non vidi in essa alcun tempio, perché il Signore Dio, l'Onnipotente e l'Agnello sono il suo tempio, e la città non ha bisogno di sole né di luna che risplendano in lei, perché la illumina la gloria di Dio. E l'Agnello è il suo luminare, e le nazioni cammineranno alla sua luce, e i re della terra vi porteranno la loro gloria. E le sue porte non saranno mai chiuse di giorno, la notte quivi non sarà più, e in lei si porterà la gloria e l'onore delle nazioni. E niente di immondo e nessuno che commetta abominazione o falsità entreranno, ma quelli soltanto che sono scritti nel libro della vita dell'agnello. Poi mi mostrò il fiume dell'acqua della vita, limpido come cristallo, che procedeva dal trono di Dio e dell'agnello. In mezzo alla piazza della città e da ambi i lati del fiume stava l'albero della vita, che è da 12 raccolti e porta il suo frutto ogni mese, e le foglie dell'albero sono per la guarigione delle nazioni. E non ci sarà più alcuna cosa maledetta. E in essa sarà il trono di Dio dell'agnello. I suoi servitori gli serviranno ed essi vedranno la sua faccia e avranno in fronte il suo nome. E non ci sarà più notte, ed essi non avranno bisogno di luce di lampada, né di luce di sole, perché li illuminerà il Signore Dio, ed essi regneranno nei secoli dei secoli. Quindi, questa è la città che Dio ha preparato per i suoi eletti, chiamata la Gerusalemme di sopra, chiamata la Nuova Gerusalemme. Lo ripeto, è una vera città. Non è un simbolo, come voi sapete, ci sono molti pastori che sostengono che la Nuova Gerusalemme sia un simbolo. Questa è una menzogna generata dal padre delle menzogne, e voi sapete che il padre delle menzogne è il diavolo. Lo ripeto, dice la scrittura di Abramo, per fede, capitolo 11 degli Ebrei, per fede soggiornò nella terra promessa, versetto 9, come in terra straniera, abitando in tende con Isacco e Giacobbe, eredi con lui della stessa promessa, perché aspettava la città che ha i veri fondamenti, e il cui architetto e costruttore è Dio. Vedete? È così semplice, ma così semplice quello che dice lo scrittore agli Ebrei. Vedete come sono chiare queste parole? Che Abramo aspettava la città che ha i veri fondamenti. Abbiamo visto, no? Questi veri fondamenti in che cosa consistono. E il cui architetto e costruttore è Dio, certo, perché lui l'ha progettata e lui l'ha costruita. La Nuova Gerusalemme non è stata fatta da mano d'uomo, è stata fatta da Dio. D'oro puro, avete notato? Come allora tu, fratello, credi che la città sia d'oro puro? Sì, come scritto, come leggi, come scritto. La piazza della città era d'oro puro, simile a vetro trasparente. Che c'è bisogno che commenti? C'è bisogno che ti spieghi che cosa significa? Non ritengo di doverlo fare. È così chiaro. Parla da sé la Sacra Scrittura. Chi ha orecchi da udire, oda. Quindi, vedete, fratelli, questa è la Nuova Gerusalemme, che scenderà dal cielo un giorno. Sì, adesso è in cielo, ma un giorno scenderà dal cielo. E dopo che questi cieli e questa terra saranno distrutti e al loro posto Dio creerà nuovi cieli e nuova terra, la Nuova Gerusalemme appunto scenderà dal cielo sulla nuova terra, e tutti coloro i cui nomi sono scritti nel libro della vita dell'agnello, e tutti coloro che hanno lavato quindi le loro vesti nel sangue dell'agnello, perché coloro i cui nomi sono scritti nel libro della vita dell'agnello sono coloro che hanno lavato le loro vesti nel sangue di Cristo Gesù, che è l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Ebbene, questa città quindi scenderà e tutti gli eletti vi abiteranno, vi regneranno nei secoli dei secoli. Quindi per poter entrare in questa gloriosa città occorre conservare appunto la propria fede nel figliolo di Dio, le proprie vesti incontaminate, perché sono vesti bianche che noi dobbiamo studiarci di conservare appunto pulite fino a quel giorno. È un giorno glorioso, quello della nostra dipartenza dal corpo, ma naturalmente il dopo la morte non consiste solo in una permanenza del cristiano in cielo, nella gloria, nel paradiso celeste, ma consisterà anche nella resurrezione, perché va precisato questo, che è molto importante. Noi non crediamo solamente che dopo la morte andremo con il Signore, naturalmente la nostra anima andrà con il Signore, ma crediamo anche che c'è un giorno stabilito da Dio, che è il giorno appunto in cui Cristo ritornerà dal cielo con gloria e con potenza, in cui, come dice la scrittura, scenderà dal cielo con potente grido e con voce d'arcangelo, nel quale appunto Cristo risusciterà tutti coloro che sono morti in Cristo e trasformerà quelli che saranno trovati vivi al suo ritorno, e tutti insieme saranno rapiti a incontrare il Signore nell'aria. Ma in relazione alla resurrezione è bene dire che questa resurrezione sarà una resurrezione corporale, e una resurrezione appunto in cui avverrà il ricongiungimento dell'anima con il corpo. In sostanza, noi possiamo dire che alla resurrezione i morti in Cristo recupereranno il loro corpo che hanno perso e lo recupereranno però glorioso, immortale, incorruttibile, e in quel corpo naturalmente rientrerà l'anima, e anima e corpo vivranno, regneranno con Cristo per l'eternità. quindi alla risurrezione dei morti in Cristo o alla risurrezione dei giusti, che avverrà al ritorno di Gesù, avverrà il ricongiungimento dell'anima, dell'anima con il corpo. Il corpo dei credenti non andrà perduto per sempre, no, sarà recuperato, sarà ripreso dai credenti in virtù della potenza di Dio, e quando lo riprenderanno naturalmente sarà un corpo simile al corpo della gloria di Cristo Gesù, quindi sarà un corpo potente, sarà un corpo immortale, sarà un corpo incorruttibile, ed è con quel corpo che appunto i morti in Cristo e naturalmente anche coloro che non vedranno la morte ma che saranno trasformati, perché sia i morti in Cristo che risusciteranno sia i viventi che saranno mutati otterranno lo stesso corpo, è evidente questo, solo che la differenza è che mentre i morti in Cristo appunto vedranno la morte, i viventi non la vedranno la morte, saranno solamente trasformati dalla potenza di Dio, però il corpo che otterranno i viventi sarà uguale, identico a quello che otterranno coloro che risusciteranno. Ebbene, con quel corpo tutti gli eletti, tutti i figlioli di Dio regneranno nei secoli dei secoli nella nuova Gerusalemme, sulla nuova terra che il Dio a suo tempo creerà. Quindi, fratelli nel Signore, avendo questa speranza, avendo queste promesse che il Signore ci ha fatto, studiamoci, lo ripeto, di conservare la nostra fede fino alla fine. Badiamo a noi stessi, non facciamo come gli israeliti, non facciamo posto all'incredulità, perché l'incredulità porta a ritirarsi dall'Iddio vivente. E come dice, lo ripeto, il Signore, il mio giusto vivrà per fede, ma se si tira indietro, l'anima mia non lo gradisce. Quindi continuiamo ad avere fede fino alla fine, per salvare l'anima nostra, andare in cielo con il Signore nella gloria beata, in attesa poi della resurrezione che sperimenteremo in quel giorno e in cui appunto avverrà il ricongiungimento dell'anima con il nostro corpo. Quindi, fratelli nel Signore, la mia parola conclusiva è questa: riteniamo ferma fino alla fine la fiducia che avevamo da principio per ottenere l'adempimento, il compimento delle promesse che il Signore ci ha fatto. Le sue promesse sono fedeli e veraci, ma affinché noi ne possiamo vedere, affinché noi ne vediamo il compimento, c'è bisogno che continuiamo a credere in esse fino alla fine. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta. Amen.